Ciao ragazzi, sono Daniele, un rapperino di quartiere da Scampia. Se vi piace la pizza margherita, ascoltate questo pezzo. A pizza margherita, resta sema preferita, maro come saporita, ma magna ma leccorita. La mozzarella bella, roscio come caramelle, yara, menata fele, luarma mezzo burdella. La mena pizza fritta, sino non mi stongo zitto, cosci come una marmita, non morsella di sconfitta. Per il che sta siccia, ho visto più massiccio, non fa niente, mentre ciccio che mi faccio in un pasticcio. Yeah, tutte pizze sono buone, ma lecco puro cartone, che fa levo cornicione, ma capo non funziona. Daniele Gugaitano, ci vuole una pizzeria sana, può fa una dubara, non dopo attacco. Scumbare, mangi pizza da quando ero piccirillo. Meglio camarai se non te faccio sta tranquilla. È una bomba e quando mi mangia roppa zomba. Pino pare pizzette mettendo fornette. E quando si squaglia provola è perfetto. Rammanata pizza bello come una margherita. In un piatto servito dall'universo solamente n'anda amico yo. Rammanata pizza, rammanata pizza yeah. Rammanata pizza, rammanata pizza yo. Ramanata pizza, ramanata pizza, yo. A pizza margherita, yeah.